Italia in controluce. La seconda edizione di Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. È una puntata monografica dedicata all'integrazione dei cinesi in Italia. Iniziamo il nostro viaggio, il nostro racconto da Roma con Andrea Viali. Nelle vie del quartiere Esquilino i negozi gestiti dalla comunità cinese si contano ormai a decine. Da tempo questa zona è diventata la Chinatown di Roma. Qui si vendono soprattutto vestiti. Maglie, pantaloni e giubbotti hanno prezzi davvero stracciati. In realtà però quelli gestiti dai cinesi più che veri negozi sono showroom, perché quelli esposti negli scaffali in genere sono soltanto campionari e la merce è venduta preferibilmente in grosse quantità. Si vende cioè all'ingrosso, anche se nel centro di Roma questo tipo di commercio è vietato dal comune, che a più riprese nel corso degli anni ha provato a bloccarlo. Nonostante questo, però, le vendite all'ingrosso all'Esquilino continuano ogni giorno e alla luce del sole. E per scoprirlo basta scegliere a caso alcuni di questi negozi, entrare e chiedere qualche informazione, come abbiamo fatto noi con un microfono nascosto. Quanto le fai le camicie? Solo per te? Sì, pensavo sì. Se ne prendo di più? Non vendiamo più, noi vendiamo cartoni. Cartoni? Magazzino. Volevo vedere qualche felpa. Quanto vengono? Sì? Scatola. Scatola? Un pezzo, 25. Qua è sempre solo campioni. Cioè? Qua solo campioni. O scatola, non qua è magazzino. Qua scrive, è la via dell'uomo, là è il magazzino. Gli scatoloni si ritirano in un magazzino in via dell'Omo, ci spiega questa commessa. In via dell'Omo, quartiere prenestino, periferia est della capitale, di magazzini cinesi ce ne sono davvero molti e basta farci un salto per osservare il viavai incessante di scatoloni caricati e scaricati su auto e furgoni. Un flusso di merci dietro il quale, oltre alle vendite all'ingrosso irregolari, le forze dell'ordine hanno scoperto anche altri illeciti, come ci spiega il capitano Antonio Cutillo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma. Roma viene utilizzata, diciamo, come base di stoccaggio per poi spedire i prodotti un po' in tutta Italia e anche in Europa. Presso l'Esquilino c'è un piccolo, diciamo, showroom dove è possibile visionare il capo e vengono presi gli ordinativi. La merce viene o consegnata direttamente presso l'acquirente o viene messa a disposizione all'acquirente alle porte di Roma. Parliamo anche di merce che è contraffatta, non sicura, non corrispondente alla normativa vigente e un falso made in Italy. La maggior parte di questi prodotti viaggia senza nessun tipo di documento fiscale attestante l'acquisto, tutto in nero. Dietro alle vendite all'ingrosso illecite si celano quindi anche l'evasione fiscale, ma soprattutto la contraffazione, e ogni anno sono milioni gli articoli contraffatti sequestrati a Roma dalla Guardia di Finanza. Noi cerchiamo di ricostruire l'intera filiera del mercato della contraffazione in modo tale da cercare di arrivare al centro di produzione o di importazione della merce illegale. E in più, con l'introduzione della legge 99 del 2009, c'è la possibilità di aggredire il patrimonio dei soggetti dediti alla contraffazione. Molto spesso, infatti, i soggetti di nazionalità cinese dichiarano al fisco un reddito pari a zero, ma nella realtà hanno la disponibilità di beni di lusso, sia mobili che immobili. La difesa del Made in Italy passa quindi anche per le vie dell'Esquilino e più in generale per Roma, dove secondo le ultime stime transita circa il 20% di tutte le merci contraffatte che circolano in Italia, un giro d'affari illecito che tocca il 1,5 miliardi di euro all'anno solo nella capitale, soldi italiani che però parlano anche cinese. E da Roma ci spostiamo in Veneto con Roberto Bonaldi. Nel suo ristorante a Cadoneghe, in provincia di Padova, Ulu Shang, detto Marco, propone tutti i giorni involtini primavera, ravioli al vapore e spaghetti di soia. Da poco però c'è una novità. Tra i camerieri è arrivata Giulia, padovana. È la prova che per gli italiani in cerca di lavoro una soluzione può arrivare dall'imprenditoria cinese. Mi trovo bene con le altre mie colleghe. sono venuta qui per caso perché io ho fatto la maturità quest'anno e cercavo lavoro, e finché non trovavo altro intanto sono venuta qui. 2 giorni dopo mi ha chiamato. Beh, se uno cerca lavoro, sì, alla fine è un lavoro come un altro, non c'è niente di particolare. Cioè, alla fine fare cameriera in un ristorante o fare in un altro è la stessa cosa, insomma, non c'entra niente cinesi o no. A Padova sono tanti cinesi, eppure tra loro, come spiega Marco, non è poi così semplice trovare chi sia disponibile a lavorare in un ristorante. Come in questo settore, il ristorante lavoro è pochissimo, cioè loro hanno deciso di vendere abbigliamento, negozi di ingrossisti, tante attività, allora per quello è difficile trovare i camerieri cinesi. Anche altri ristoranti cinesi seguiranno le sue orme, ne è convinto Marco. Lui ha intenzione di assumere a breve altro personale italiano e intanto viene in aiuto anche degli alluvionati padovani. Io ho tirato fuori 3.000 euro, ho visto c'è tanti danni a Padova, allora io volevo dargli una mano perché io voglio tanto bene a Padova, padovani. Io ne ho ancora un sacco di debito anche lì da pagare, però non importa, l'importante è diamo mano a quello che è possibile. Dalle piccole realtà imprenditoriali a quelle più grandi. Sempre nel padovano basta spostarsi di qualche chilometro per arrivare a Campodoro, dove Haier, colosso cinese nel settore degli elettrodomestici, produce frigoriferi per l'intero mercato europeo. Marchio orientale, ma in fabbrica nessun operaio cinese. Il perché lo spiega il direttore generale Francesco Albrizio. Credo che non succederà mai che troverà in una qualche realtà industriale italiana del personale cinese che lavora fianco a fianco ad altro personale nella linea di montaggio, perché la atipicità dell'immigrante cinese è quello che affronta un grande viaggio per coronare il suo sogno, che è quello di affrancarsi dalla povertà. Per cui arrivano tutti quanti con dei soldi frutto di investimenti, di chi ha investito in loro. E il primo punto che dovrà affrontare questo personaggio in Europa è ripagare il debito. L'altro immigrante che arriva è quello che è richiamato dai parenti o dagli amici che già hanno affrontato questo viaggio, e lui sì, per i primi mesi, i primi anni è, scusatemi il termine, schiavizzato, ma il titolare è un loro amico, un loro parente, un loro cinese, loro sopportano, perché così facendo sanno che riusciranno a mettere in piedi un capitale che a loro volta permetterà di aprire un'altra attività e ricostituire il ciclo. Ecco allora chi c'è nella catena di montaggio. Solo da 1-2 anni riusciamo a trovare manodopera locale, e questo è dovuto a questo periodo di crisi. Altrimenti abbiamo sempre solo trovato manodopera di varie etnie extracomunitari, dall'Africa, dal Kosovo, dall'est Europa. E come si trovano gli operai nella fabbrica? Da 5 anni che sono qua a lavorare, sono entrato tramite agenzia, conoscevo già la ditta. Quando me l'hanno proposto ho detto bene bene, è un bel posto e ci sono venuto volentieri. Io arrivo dalla Romania, lavoro qua da più o meno 10 anni e mi trovo bene. Lei è venuta dalla Romania e lavora in un'azienda di origine cinese? Beh, diciamo molto meglio che là. Io mi trovo bene, molto bene. La gente, i conoscenti mi dicono ma come tu lavori per i cinesi qua e là, e io cerco di parlare il meglio che posso. Con i recenti accordi commerciali tra Italia e Cina l'azienda scommette, nel giro di pochi anni non sarà più una mosca bianca, altri italiani insomma lavoreranno per il dragone cinese. La seconda edizione di Italia in Controluce, il mio blog lo trovate su radio24.it, torniamo lunedì 20 dicembre alle 6.30 su Radio 24.